il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Incredibile, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è stata, è proprio una settimana incredibile. Bisogna dire che la noia non è di questo mondo, soprattutto verrebbe da dire non è di questo paese. Quindi tenetevi subito pronte e pronti a intervenire in questa puntata intensissima, perché agenzie poi permettendo, sapete, ultimamente si blocca un po' il video e vorrei aggiornarvi su tutto quello che succede, ma soprattutto parleremo di questi ultimi sviluppi della situazione, che è ancora molto in corso, molto in fieri, come si dice, perché sapete insomma che cosa sta succedendo. Vi dico però subito il numero verde, così se avete delle idee ribollenti, dei pensieri che volete esprimere, potete farlo qui in diretta. 800 24 00 24, questo è il numero verde, quindi gratuito, 800 24 00 24. Insomma, le notizie sono varie naturalmente anche questa settimana in Italia e nel mondo la situazione, i rapporti con l'Iran che sono sempre più tesi, perché appunto c'è il sospetto che stiano da diverso tempo creando la bomba nucleare, ma continuano invece, Teheran continua ad affermare che è soltanto per scopi civili. Poi Santoro, la sua seconda puntata, ha detto che ormai la sua è la terza televisione. Il delitto Claps, che finalmente pare avere un colpevole a giustizia dopo tanto tempo, dopo 18 anni a Danilo Restivo sono stati combinati 30 anni di carcere, già sta scontando l'ergastolo in Gran Bretagna per un altro omicidio. Questo vabbè è, diciamo, il giudizio di primo grado, ma è la notizia grossa di questi giorni, è anche quella che ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni. Sì, perché una stagione, qualcuno dice un ventennio, effettivamente sono circa vent'anni, così sta finendo molto in modo rocambolesco. Di solito appunto le stagioni normali piano piano, no? In modo progressivo, poi inizia un'altra, ma anche questo ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Qualcuno addirittura ha parlato in questi giorni della caduta del muro di Berlino, con due grandi forze che si devono unire e integrare per salvare il paese. Sapete che si è votato alla Camera in questi giorni sul rendiconto dello Stato e Berlusconi ha perso la Camera la maggioranza. Poi lo spread che è salito alle stelle, le borse precipitate, insomma un incalzare di eventi, per cui pare che insomma oggi in giornata il Presidente del Consiglio dovrebbe dare le dimissioni e l'incarico, come avete sentito anche al giornale radio, dovrebbe essere poi affidato a Mario Monti per un nuovo governo. Però appunto sono tutte cose che man mano si stanno sviluppando, quindi vi terrò aggiornati, ma riflettiamo anche su questi fatti incredibili. Tra l'altro, prima di presentarvi tra pochi istanti l'opinionista estemporaneo di oggi, vorrei, siccome sapete che questo è l'unico programma al mondo radiofonico che ha due collegamenti diretti proprio, uno con un altro pianeta da cui arriva un'altra angolazione, un altro punto di vista, e l'altro è con il Parlamento. Allora, visto che Napolitano ancora ha richiamato alla coesione nazionale, sentiamo qual è la reazione. Aprite col Parlamento, per favore. Vabbè, magari poi nel corso della giornata si calmano, vabbè. Tranquilli adesso, e direi subito invece di presentarvi, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi. Francesco Merlo. Buongiorno. Caro Francesco. Grazie per i tamburi. bisogna dare un po' di enfasi a questa presentazione, alla tua presenza qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Francesco Merlo, sapete, notissimo editorialista di Repubblica, una delle più grandi firme del giornalismo, è stato tanti anni anche al Corriere, poi per Repubblica anni a Parigi, adesso finalmente è ritornato nel nostro paese anche per dare un sostegno in questo momento difficile. È così, Francesco? Ma no, non credo che abbia bisogno di sostegno. Senti, sono tornato per vedere più da vicino. Ma glieli ricordi tu? No, scusa. Tu, come? Tu, Francesco, glieli ricordi tu? Ma il... No, ti dico perché ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto, però ricordate a fini le sue dimissioni dopo le mie. Allora, ah, ecco. Caso gliele ricordi tu, gliele ricordi poi. Sì, cadono sempre delle deità minori quando cade quando cade la divinità più importante. Che pensi in questo momento, il tuo pensiero dominante, poi andiamo man mano sui fatti, sugli sviluppi, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe molto che la giornata di oggi fosse una giornata normale, perché un paese normale e maturo ha bisogno di giornate normali, quando cambiano le leadership, quando un capo cade, insomma. E quindi mi piacerebbe che tutto andasse tranquillamente, come peraltro in qualche maniera sembra, perché il pranzo che è attualmente in corso di Monti a Palazzo Chigi su invito di Berlusconi è ovviamente un atto pacificatore. Dipende da cosa mangiano, secondo me, anche Francesco. Sì. Mettiamola lì, no? Siamo sempre esseri umani, per cui sì. C'è già Gina dalla provincia di Imperia all'800240024. Ci sono anche moltissimi commenti sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. In questi giorni vi siete scatenati, per esempio, sulle previsioni rispetto giorni fa alle annunciate dimissioni di Berlusconi. C'era poca fiducia, diciamo, nel concretizzarsi di questo atto, no? Hanno scritto Paolo Pavia, Alessandro Landi, Lorenzo, sì, insomma, William, che dice: i detrattori di Berlusconi non si contentano mai, speriamo che la legge di stabilità venga approvata presto, prestissimo, che sia il più severa possibile, che si faccia un governo politico e non tecnico di amplissima coalizione, che si possano approvare le riforme. Poi ci sono anche moltissimi, devo dire, i commenti, ma se volete andate direttamente sulla pagina della trasmissione, e hanno eletto anche le ascoltatrici e ascoltatori la frase della settimana. Io, Francesco, te ne butto lì qualcuna, poi ti dico quale ha vinto tra queste, qual è stata la prescelta. Dimmi tu, se hai magari anche una matita per prendere appunti, qual è tra le tante frasi di questa settimana e tra queste che ti cito la tua preferita. Sei pronto, Francesco? Sono pronto. Allora, Di Pietro ha detto, poi si è ricreduto, PDL e PD si appoggeranno, questo governo saranno come due maschi in camera da letto che non fanno figli, un putiferio giustamente di associazioni gay. Poi Bossi dice, governo tecnico, è bello andare all'opposizione, insomma un Bossi che vuole ritornare, partito di lotta, diciamo. Versace, Santo Versace, a Berlusconi ha detto, il vero traditore è proprio chi sta ora a Palazzo Chigi, colui che ha ridotto l'Italia nelle condizioni della Grecia. Rocco Buttiglione ha detto, Berlusconi vale 300 punti di spread, sono i punti della mancanza di fiducia nella politica. Roberto Antonione, uno di quelli considerati traditori da Berlusconi, ex PDL, definito appunto traditore, ha detto Berlusconi è da compatire. E Berlusconi stesso, dopo le annunciate dimissioni, ha detto ho fatto un gesto d'amor patrio. D'Alema, cerchiamo di mandarvi a casa, è il compito naturale dell'opposizione. E Cesare Prandelli, commissario della Nazionale di Calcio, ha detto se ci sarà una patrimoniale, noi che siamo fortunati faremo la nostra parte di sacrifici, in un paese civile si chiedono a noi, non a chi è disperato. Qual è la tua scelta? La frase di Bossi, è bello andare all'opposizione, credo che Bossi sia all'opposizione è bello per il paese. E ricominciamo allora a discutere, a parlare. Abbiamo appena, diciamo, iniziato ad affrontare l'argomento cruciale di questi giorni. C'è con me, opinionista estemporaneo, in collegamento telefonico, Francesco Merlo, editorialista di Repubblica. E dicevamo, Gina dalla provincia di Imperia ci stava parlando all'800240024. Gina, allora dicevi che Sarkozy ha minacciato di venire in Italia? No, più che minacciato, non so se ha chiesto. Volevo sapere se tu ne sapevi qualcosa. È stato detto questa mattina, però en passant, sulla 7, non so se sia. Ma perché vero. A te spaventa l'idea che Sarkozy possa venire in visita o addirittura ad abitare? Mi spaventa, sai perché? Perché sai, a memoria storica, quando il popolo ha fame, che ci si dice che se non ha il pane di mangiare le brioche, io penso che adesso siamo a un livello veramente basso come popolo, è un po' di orgoglio nazionale, penso che ci venga fuori, per cui non credo che il popolo accetterebbe un'ingerenza. No, ma Gina, ma certamente non è che viene a fare qualcuno che detta delle ricette o che addirittura vuole guidare qualcosa in Italia, verrà in visita, Roberta, giusto per guarda sì. Che lo stanno già facendo. Chi è che lo fa? La Sarkozy e la Merkel. No, vabbè, ogni tanto fanno qualche risatina, ma è roba diversa. Qui sai, il consesso internazionale, l'Europa, eccetera, eccetera, qualcuno dice anche lo stesso Monti rappresenta le banche, il capitalismo internazionale, eccetera. Non lo so, adesso chiediamo piuttosto a Francesco Merlo. Grazie Gina, tu che ne pensi di queste accuse, persino anche Prodi, che ha detto no, noi siamo amicissimi con Monti, grande stima, eccetera, però per esempio il fatto che lui sia un tecnico, anche se poi Napolitano l'ha fatto senatore, dice è un po' una sconfitta della politica, mentre mi pare che fosse Casini a dire no, invece è l'unica possibilità di rinascita della politica. Che pensi tu, Francesco? È l'unica possibilità che c'è in questo momento, è una possibilità molto seria, e perché c'è bisogno di una persona che garantisca i mercati, è un grande economista, è un uomo indipendente, è un liberale. Quindi sicuramente è un successo dell'Italia portare Monti alla presidenza del Consiglio. Detto questo, la situazione è ovviamente anomala, perché sarebbe giusto che il presidente del Consiglio fosse quello eletto dai cittadini. Quindi Berlusconi? Quindi Berlusconi, però Berlusconi ha purtroppo portato l'Italia in questa drammatica situazione e quindi deve andar via, ed è giusto scegliere un tecnico, un uomo che è per pulizia morale, per competenza, dia garanzia ai mercati. D'altra parte questo, più che un governo tecnico, è un governo del Presidente, c'è una leggera differenza, anche se la composizione sarà tutta tecnica. Cioè... Guarda, a proposito di governo tecnico, io devo dire che mai, Francesco Merlo, in nessun momento c'è stato un termine, un'espressione con tanti sinonimi, dato che non ci si capisce più niente. Per esempio, di tutti i governi che sono stati citati in questi giorni di possibilità di governo, allora, mi sono appuntata tra i tantissimi: governo di emergenza nazionale, governo tecnico, governo istituzionale, governo di larghe intese, governo di emergenza economica, governo di salute nazionale, governissimo, governo di scopo. Quando ci sono troppe parole, cioè, vuol dire che confusione, che si copre un vuoto. In realtà, quando si nominano molte cose, vuol dire che non le si dominano. E il problema è che ciascuno faceva una proposta diversa, cioè, qui siamo davanti, l'unica possibilità che abbiamo oltre le elezioni è quella del governo del Presidente, cioè il Presidente della Repubblica sceglie il Presidente del Consiglio, il quale poi sceglie i suoi ministri d'accordo con il Capo dello Stato. È molto probabile che questa lista sia già stata fatta dai due insieme. E quindi io mi immagino che Napolitano la sera apre il comodino e prima di dormire si ripassa. Ce lo immaginiamo, Napolitano con il suo abat-jour. È una figura straordinaria, perché è un uomo di 87 anni che sta lì, quello è il vero portapace italiano, il Quirinale, cioè un uomo sulle cui spalle, grazie al cielo, abbiamo messo il futuro dell'Italia in un momento così drammatico. Quindi tutto sommato qui si vogliono rottamare, diciamo, gli anziani, e poi un uomo il più anziano, diciamo, d'Italia dal punto di vista istituzionale, che regge la situazione sulle sue spalle. Ma io ti volevo chiedere, Francesco, prima di sentire tra pochissimo Mario da Verbania, forse piuttosto che un governo di larghe intese, qualcuno potrebbe preferire un governo a larghe tese, così anche se piovesse uno deve dire piove governo ladro, che non so, per esempio, è venuta in mente questa cosa, no? Beh, questo perché abbiamo avuto delle drammatiche situazioni anche dal punto di vista dal punto di vista ambientale, dal punto di vista climatico, come ricorda il titolo della nostra trasmissione, no? Certo. Siamo accorti che non ci sono le mezze stagioni. Che non ci sono più le mezze stagioni, purtroppo. Che tutto si concentra a volte in certi periodi ristretti con le tragedie di cui abbiamo vissuto, chi per cronaca e chi sulla propria pelle in questi giorni. Mario da Verbania. Buongiorno e grazie per avermi chiamato. Grazie Mario, grazie per averti richiamato, e noi che ti abbiamo poi richiamato. Sì. Dottoressa, cercherò di essere sintetico. Molto come bene. Lei ha bisogno. Mi devo preoccupare? E guardi, no. Do soltanto dei piccoli suggerimenti, sì, che ho già cercato di far passare ma fanno fatica. Sì. Il nocciolo è questo: chiedere quattrini agli italiani va anche bene, ma gli italiani li spendono più volentieri se sanno che poi ne hanno un tornaconto. Certo. Se li spende qualcuno di cui loro, scusate, ormai nella classe politica si fidano di qualsiasi parte sia abbastanza poco, sarebbe utile che ci fosse un tornaconto diretto. Allora gliene propongo servizi, qualcuna. Diciamo. Quali sarebbero questi tornaconti? Molto semplice, abbastanza semplice. Dunque, facciamo un esempio. Sì. Le città sono ingolfate dalle auto. È una cosa vergognosa. anni or sono si parlava di creare box. Io so che molte nazioni, se vuoi avere l'automobile, devi avere il posto auto. È un po' discriminatorio questo, però? È discriminatorio, ma piaccia o non piaccia, mi permetta, faccio un inciso. Dottor Mario Monti, se lo fanno dittatore, riesce a risolvere qualcosa, ma se deve star dentro nei giochi della politica, è un inciso. Per conto mio dovrebbero dargli pieni poteri come facevano i romani e poi alla buon cincinnato quando saranno finiti i problemi. Ma Santi lasciamo lui. Andare. Ho divagato. Sì. Dicevo, un piano per cui si dà tempo un certo numero di anni, si dice ai cittadini guardate che entro una certa scaletta di anni, ma per intanto il tuo giocattolo, mi fai la cortesia, se lo vuoi lasciare parcheggiato per strada, Mario, paghi scusami Mario, la premessa era che eri sintetico, diciamo che già ci stiamo dilungando, e su argomenti estremamente interessanti, cruciali, diciamo, per la nostra buona convivenza, però qui andiamo un po' fuori. Adesso non credo che sia la priorità di Mario Monti questa, però intanto ti ringrazio Mario. Scusami, perché adesso abbiamo, mi dicono, il collegamento diretto con un altro pianeta, sì. Riflessioni da Marte. Ebbene sì. Anche a vederla da quassù, da Marte, è stata una vera svolta, un passaggio storico, una decisione che chiude un'epoca. Proprio così. Per orsi polari, tigri e panda potrebbe ormai essere troppo tardi. Evitare la loro estinzione, infatti, sarebbe o impossibile, visto l'ulteriore riduzione della biodiversità prevista nei prossimi decenni, o eccessivamente costoso. Meglio dunque concentrarsi su specie meno famose ma che hanno davvero la possibilità di salvarsi la pelle. Così hanno deciso almeno 600 scienziati impegnati nella protezione dell'ambiente. Dunque, addio panda, addio tigri, addio orsi polari, addio monti, o meglio tramonti sorgenti dalle acque. E a proposito di estinzione, il russo Putin ha dichiarato giusto ieri: Berlusconi è l'ultimo dei moicani. Eh sì, può succedere quando si è attorniati da traditori, come ha tuonato il Presidente del Consiglio. Del resto, una ricerca dell'americana Cornell University dimostra che in realtà nella vita per ognuno gli amici veri sono solo due. Chi saranno dunque in un frangente sì drammatico i due veri amici del Premier? Sicuramente non lo spread. Un uomo che dice che dà, è un uomo che invece non dà. Un uomo che dice che fa, è un uomo che invece non fa. Chi dice di dare non dà, chi dice di fare non fa. Attenta ad un uomo che sa parlare soltanto di sé. Qui con i piedi per terra, per fortuna naturalmente, e direi di sentire a questo punto all'800 24 0024 Marina da Roma. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Marina. Buon pomeriggio, buon lavoro a tutti, una buona vita. Grazie anche a te. Io non mi fido, no. non mi fido, lo sento a pelle, spero soltanto... Di chi è che non ti fidi Marina? Non mi fido di tutto quello che sta accadendo, non mi fido che il Caimano si dimetta. Dovrebbe essere entro sera comunque. Non mi fido. Questa è la tua previsione. Non prevedo niente, spero soltanto finalmente dopo 20 anni di smetterla di declinare il verbo vergognarsi, perché è l'unico verbo che mi ha suscitato questa persona. Non so quale salvacondotto lui voglia per sé e per le sue amate aziende, sarà certamente qualcosa di importante, spero comunque di cessare di vergognarmi di tutto ciò che ha fatto, non avendo fatto niente, ma anche le cose che ha fatto per sé. Non ho memoria di niente, una piccolissima chiosa che me l'ha fatto proprio, lasciamo perdere, non so se vi ricordate quando venne il presidente Clinton a Roma e lui si affacciò al Campidoglio. Ed era quello il regalo da fare a Clinton, null'altro che Michelangelo. Pronto? Sì, no, stavo cercando di ricordare il momento. E invece si presentò la sua moglie con una collana di, c'era stata, non so, di sassi grossi così. Ecco, questo è il nostro presidente. Voleva fare un omaggio. No, quale omaggio? L'omaggio era Michelangelo e Campidoglio. Vorrei smettere di vergognarmi. Grazie Marina. Che ne pensi tu, Francesco Merlo? Adesso intanto ti dico che tra le frasi prima citate, i facebookiani di Non ci sono più le mezze stagioni hanno scelto quella di Prandelli. Forse in questo momento Prandelli ha detto, vabbè, se ci sarà una patrimoniale, i calciatori, che insomma sono tra i più privilegiati, accetteranno di pagare questa tassa. In questo momento di crisi, di tensione, di paura, di iniquità, che in parte c'è, insomma, ascoltatrici e ascoltatori su Facebook hanno scelto questa frase. Però a proposito invece di quanto diceva Marina, tu sei così, perché anche i giornali, poi i giornali internazionali, mi piacerebbe leggere qualche commento dopo, sono terribili su Berlusconi. Secondo te è un po' ingiusto, sono un po' ingiusti questi giudizi così pesanti, anche quello di Marina? No, io sono d'accordo con Marina, capisco la sua passione e anche la sua indignazione, però bisogna appunto garantire a tutti un passaggio di normalità e quindi non accanirsi, soprattutto in questo momento, perché non serve a nessuno, però certamente non fidarsi fino alla fine è giusto, visto che Berlusconi è stato capace di inventare persino le dimissioni errate. Cioè, nel senso che ha detto mi dimetterò, avevamo visto in Italia di tutto, mi dimetto, in Italia in genere le dimissioni servono per riammettersi, no? Però le do, fermatemi, si danno le dimissioni sperando che vengano rifiutate, cioè, Berlusconi aveva inventato mi dimetterò quando, cioè, anziché dimettersi subito ha detto perché, e poi niente, poi i mercati e il capo dello Stato gli hanno fatto cambiare idea e hanno accelerato queste sue manovre, questi trucchi che volevano di nuovo perdere del tempo, portarci lontano in attesa di nuove soluzioni. Eccoci di nuovo qui sempre, Roberta Giordano con voi, sino più o meno alle 15, e sempre il mio opinionista estemporaneo di oggi è Francesco Merlo, editorialista di Repubblica, e c'è il numero verde a vostra disposizione, 800 24 0024, per parlare liberamente sulle notizie di questa settimana e in particolare l'evolversi rocambolesco della situazione politica e anche economico-finanziaria italiana. Alla fine vedevo Prodi sul Corriere.it, mi sembra che ricordava, quando me ne andai io lasciai lo spread, questo famoso spread, il differenziale di rendimento insomma tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, a 37, questi erano i punti, 37. Tu te lo ricordi, Francesco Merlo? Ma la situazione era molto diversa. Cioè, non c'era la crisi internazionale. Credo che sia generoso dire così questo in questo momento, perché non c'entra nulla, non c'era un attacco ai mercati italiani. La speculazione, questa crisi terribile a livello mondiale. Sentiamo Guglielmo da Savona. Sì, buongiorno. Buongiorno Guglielmo. Buongiorno, ecco, una considerazione. Prima si stava un po' discutendo sull'opportunità di un governo tecnico, sì. Immagino che il motivo di questa discussione fosse per il fatto che un governo tecnico per sua natura non è espresso dalla volontà dei cittadini, ma in realtà io, questa è una polemica che trovo un pochino fuori luogo, innanzitutto perché vabbè, se noi andiamo a considerare chi fosse stato precedentemente il titolare dell'economia, cioè del Ministero dell'Economia in Italia, è sempre stato uno con noi possiamo chiamare un tecnico, cioè un economista, no? Quindi è una posizione questa che dovremmo comunque riconoscere un tecnico. E per quanto riguarda il fatto che il Presidente del Consiglio sia un economista a sua volta, quindi un tecnico designato comunque dal Parlamento, quindi dai politici, non gli fa mancare un'investitura popolare, da un certo senso, sì, immediata, comunque sempre un'investitura popolare, in più potrebbe dare questa soluzione, cioè questa discontinuità nei confronti di persone che non hanno effettivamente dato buona prova di se stesse, in quanto molto legati alla poltrona. Ecco, forse questa è stata anche una percezione. Io ho vissuto 7 anni in Inghilterra, devo dire che quando vedevo notizie al telegiornale inglese che il membro del Parlamento costretto alle dimissioni perché ha gonfiato la lista spese di 15.000 sterline. Non ha pagato i contributi alla Colf, anche mi ricordo questa cosa qui. Non ha pagato, bravissimo, non ha pagato i contributi alla Colf, queste cose. Cioè, mi sembrava veramente di venire da un altro mondo, perché allora tutto ciò va benissimo, nel senso, vabbè, Berlusconi ha sempre detto, no, io mi hanno votato, sono così, così rimango, no, sono con le signorine, va bene, ma attenzione, cioè questo va molto bene in un'ottica in cui l'Italia non dovesse essere inserita in un contesto internazionale peraltro che si deve anche esprimere in termini di finanziamento e di confronti non dell'Italia in particolare, ma comunque in un contesto di unità europea. Ho capito, Guglielmo. Economica. Senti, invece volevo chiedere, visto che guardavo le agenzie anche in questo momento, gli occhi un po' dappertutto, Francesco Merlo, c'è Santanchè che dice ribadisco no a Monti, unica via è il voto. Beh, è abbastanza normale che lo dica la Santanchè, non ci si aspettava una dichiarazione diversa dalla Santanchè, c'è un gruppo di irriducibili, di berlusconissimi, no? Che sono stati anche in passato degli estremisti per la verità, eccetera, e quindi mantengono queste posizioni estreme, ne prendiamo atto, la ascoltiamo, mi pare che la maggioranza del suo partito e Berlusconi stesso siano su posizioni diverse. Quindi non voto anticipato, ma portare la legislatura al suo termine naturale al 2013 con Monti eventualmente dovrebbe essere. Questo non lo so, cioè questo è difficile da dire. Quello che è sicuro è che Monti intanto deve aggiustare una serie di cose che drammaticamente non possono attendere le elezioni. Ovviamente le elezioni sarebbero la soluzione ideale per tutti se non ci fosse una situazione così drammatica e aggiungo se non ci fosse una legge elettorale così antidemocratica come quella che c'è in Italia. Michele dalla provincia di Alessandria, quindi cambiare il Porcellum, anche questa è una riforma che molti chiedono, la legge elettorale. Michele. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Io volevo esprimere la mia contrarietà invece a un governo tecnico, perché secondo me in un momento come questo, dove saremo tutti quanti chiamati dei sacrifici importanti, poter almeno farlo sulla base di un voto che uno ha espresso sarebbe una cosa importante, anche perché penso che lo spread del momento, la borsa di oggi e di domani, sono cose a una volatilità che non è che poi quando arriva Monti può cambiare la volatilità, però il debito pubblico rimane. Cioè magari non parleranno più del debito pubblico, però il debito pubblico è lì e voglio dire comunque forse potrebbero essere prese delle misure che piano piano rimettono in sesto sì. L'Italia, cioè se tu sei per le elezioni anticipate, che cosa risolverebbe? Io sono per le elezioni anticipate perché comunque sia le misure che verranno prese anche da Monti magari avranno un effetto di calma subito lì per lì sul mercato, però il debito pubblico è quello lì, quindi tutta questa fretta che si paventa con i mercati secondo me alla fine non esiste, è uno spauracchio che è venuto fuori proprio secondo me per mettere qualcheduno che volevano fortemente le banche prima di tutto alla governo del paese, così come è successo con Papadeus in Grecia. Senti Michele, ma quindi sei dell'opinione dei ristoranti pieni che quindi invece si va bene? No scusa, non ti ho sentito. Sei dell'idea che in realtà siccome i ristoranti sono pieni in Italia non siamo in una situazione così diciamo di rischio fallimento? La situazione è gravissima del paese, però non credo proprio che Monti potrà risolvere il vero problema del debito pubblico, anzi addirittura mi azzardo a dire che non so se lo vorrà risolvere, perché il debito pubblico è proprio un mezzo attraverso il quale si riesce a far fare ciò che si vuole, diciamo. No? Michele, ti ringrazio. Quindi Francesco Merlo, una specie di spada di Damocle da tenere così sui cittadini, sul popolo, per dire, mi pare un po'... No, io non sono d'accordo, cioè non credo che sia così, anzi direi che non è così, perché lo spread è una... Cioè, anche questo bisognerebbe andare in giro a spiegare che cos'è lo spread, perché c'è un rapporto fra gli italiani, diciamo che cresce lo spread tra gli italiani e il significato delle parole, per cui c'è lo spread misura la credibilità di una, quindi la fiducia, e la fiducia è ovviamente sale e man mano che sale la fiducia diminuisce l'interesse, cioè è il contrario, per cui qui abbiamo una fiducia bassissima e un interesse che sale sempre di più. Ci sarà un punto a cui siamo molto vicini in cui noi non possiamo più pagare gli interessi. Il debito pubblico sale ogni giorno, ogni momento, salendo lo spread, e quando si arriva a questo punto si ha quello che si chiama il default, cioè si ha la... Il fallimento, insomma, detto il proprio in parole poche. Può essere un semifallimento, poi ci sono varie cose, cioè, quindi non è vero, cioè ogni giorno che passa e ogni giorno che cui aumenta lo spread, ci avviciniamo a questo fallimento perché cresce il debito pubblico. Francesco, il debito pubblico Monti non lo risolverà completamente, però intanto ferma la crescita del debito pubblico legata alla speculazione. E poi immagino che metterà in piedi una serie di misure che devono portare il nostro bilancio, il bilancio dello Stato a pareggio entro il 2014, e quindi ci saranno delle misure certamente dolorose per tutti. C'è Luca Betti che ha scritto in questo momento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, scrive: il termine giusto è governo del ribaltone, l'unico obiettivo è eliminare Berlusconi in tutti i modi, spaccare il PDL, rompere l'alleanza con la Lega, così da consentire alla sinistra di vincere per i prossimi 50 anni. Quindi la vede un po' orizzonti foschi, diciamo. Il ribaltone sarebbe se Bersani fosse stato chiamato alla presidenza del Consiglio. Cioè, Monti è un uomo scelto dal Presidente e fuori dalle maggioranze, era stato scelto in passato anche da Berlusconi come commissario europeo prima. Commissario europeo, no? Gli aveva addirittura chiesto di fare il ministro, certamente non è un uomo targato, quindi parlare di ribaltone onestamente Sto guardando anche la stampa estera di questi giorni, mi ero presa diversi appunti, per esempio il Guardian, quotidiano britannico, che scrive in una lunga analisi dal titolo "Cosa significa l'uscita di Berlusconi per l'Italia?", dice: dopo 17 anni che hanno significato povertà galoppante, prezzi dilaganti, criminalità organizzata più forte, mercato nero in crescita e una scioccante fuga di cervelli, e per il futuro la visione più pessimistica ma forse realista è che Berlusconi, dice il Guardian, non sia ancora fuori dal potere. Secondo te? Un po' esagerato, Guardian? E poi... insomma, è un pochino, mette insieme cose molto diverse. Certo, i lasciti del berlusconismo, di Berlusconi e la società italiana sono molto radicati e li sentiremo per molti anni, perché anche fuori dal potere Berlusconi, comunque il berlusconismo resterà una categoria dello spirito italiano per molto tempo. Categoria dello spirito è bella. Proseguiamo dunque da dove ci eravamo lasciati. 800 24 00 24, il numero per esprimere liberamente le vostre opinioni su quanto sta avvenendo, sulle notizie della settimana, insomma. E sempre mio opinionista estemporaneo di oggi è Francesco Merlo. E Mario da Perugia, cosa ci racconti, Mario? Buonasera a lei, al suo ospite e agli ascoltatori. A te, Mario. Ma io rimango non stupito, però diciamo sconcertato dallo spirito italiano. Innanzitutto stupirsi sulle affermazioni di Pietro che due maschi in camera non fanno un figlio. Voglio dire, come il fotofobico che si lamenta che oggi c'è il sole. È una realtà dei fatti, è una realtà dei fatti. Non andiamo a nasconderci dietro a un foglio di... a una foglia di fico. Scusa, è la realtà. Posso chiederti una traduzione di tutto ciò, Mario? Non ho capito cosa intendi dire. Intendo dire che per natura due maschi in camera non fanno un figlio, è un dato di fatto, è la natura. Certo, si divertono in altro modo, diciamo, non per forza devono procreare. Ecco, questo, ma infatti, perfetto, sì. Ma allora non si vada a fare la filosofia che non facciano i figli. Comunque non perdiamoci anche noi in queste sciocchezze. No, Mario, ma questa cosa era stata una battuta, forse diciamo non felice, sì, di Pietro, per dire che non voleva la mucchiata. È scoppiato il finimondo su una sciocchezza tipicamente italiana. Poteva evitarlo, questo, diciamo. Sì, vabbè, questo, sono altre metafore. Un'altra, sì, ma mutatis mutandi, ci si sta aggrappando a Mario Monti. Ma pensiamo davvero che possa risolvere qualsivoglia problema? Qui abbiamo una classe politica, non voglio mettere aggettivi perché se no mi querelano, sappiamo quello che è. Pensiamo davvero che lui, senza prendere i voti, perché ha comunque bisogno dei voti dei parlamentari per fare una legge, costoro siano disposti a rinunciare a vitalizi da migliaia di euro al giorno? Siamo davvero convinti che senza riparare il secchio si apre la cannella, ci si mette l'acqua e si possa tenere l'acqua nel secchio? No, si apre la cannella, si chiedono più soldi ai contribuenti, ma si continuano a comprare Maserati blindate per i generali, si continua a chiedere di assumere Golf a 51.000 euro all'anno, si continua ad aumentare gli stipendi. Insomma, non hai fiducia, diciamo, in quello che, perché una cosa che vorrebbe fare è sicuramente tagliare i privilegi, così aveva detto Mario Monti, no? Però tu non mi pare fiducioso, Mario, anche perché continui ad andare avanti abbastanza veemente, ma io ti devo purtroppo fermare perché abbiamo ancora poco tempo e direi forse è il momento che la nostra Maria Laura Rodotà così ci faccia proprio come si può dire un flash Maria Laura. Guarda, non è più il momento di tentare di fare giornalisti brillanti. Io, no, per esempio mi starei cercando di riposizionare come tecnocrate di respiro europeo. Mi piace questo. Oh, sono qui con la mia copia del Financial Times, sì, e invece di Maria vorrei chiamarmi anch'io Mario d'ora in poi. Dici? Essendo uomo si ha sempre più poteri, si ha sempre più luoghi, posti di visibilità, eccetera, eccetera. Conviene, devo dire, eppure siamo donne, diciamo. Teniamocelo, Maria Laura. Ma sì. Grazie Maria Laura, ritroveremo Tecnocrate nella prossima puntata. E molto brevemente c'è Leonida da Vicenza. Leonida, tu riesci a essere un po' più sintetico, pur appassionato magari, ecco? Sì. Ci proverò. Bravo. Niente, io volevo solo dire che Mario Monti e il governo tecnico sono una opportunità. Cioè, proprio come si diceva prima, per una volta c'è una persona che è un po' più staccata dagli interessi, dagli egoismi, da tutte queste cose che abbiamo visto della politica, forse può avere il coraggio, è un governo tecnico, può avere la forza di presentare cose che altrimenti non potrebbero essere presentate appunto dai vari deputati e tutti quelli che sono. E questa è una. Poi una piccola soluzione per il futuro, cioè se noi continuiamo a dare il problema dei bot e cose varie, perché non possiamo fare in modo di legare, tra virgolette, una specie di condono o una specie di patrimoniale? Le persone che hanno capitali o all'estero o in Italia potranno scegliere tra, facciamo l'esempio della patrimoniale, una patrimoniale del 3% oppure acquistare Di titoli di Stato? Esatto, con l'obbligo di tenerli per 5 anni, per esempio. Leonida, chiediamo a Francesco Merlo se può essere un'idea questa per rilanciare l'economia italiana. Secondo te, Francesco? Ma tutte le idee sono buone purché vengano applicate bene, cioè non so, bisognerebbe chiederlo al Presidente del Consiglio, onestamente non so dire se sono praticabili. È bello avere idee di questo genere, perché già significa in qualche maniera mettere il naso e le mani nelle grandi questioni dell'economia. Adesso che le cose incalzano man mano, sentiamo invece, a proposito della parola della settimana che ho in mente, la linguista Valeria Della Valle della Sapienza di Roma. Valeria, ti chiederei questo termine che riecheggia dimissioni, da dove viene, perché, dove va? Da dove viene? Allora, per andare velocissimi, non risalirò alla parola latina, da cui pure dimissioni dicela questa parola latina, ecco, è dimissione, però la singolarità è un'altra, che la parola dimissioni, così come il verbo dimettersi, sono entrate nella lingua italiana molto tardi, addirittura nella seconda metà del Settecento attraverso la lingua francese, quindi come se prima di allora nessuno si dimettesse. Allora viene spontaneo un dubbio: che ci sia una resistenza tutta italiana alle dimissioni e al dimettersi, che in fondo è testimoniata anche dalla storia di queste parole? Grazie carissima Valeria Della Valle, molto sintetica, grande dono quello di Valeria, oltre alla sua competenza. Leggevo delle agenzie, nulla di straordinario negli ultimi momenti, vediamo, Maroni dice il problema è cosa succederà nell'alleanza PDL e non si capisce che cos'è quest'altra sigla, vediamo. Noi non abbiamo problemi, ha spiegato il ministro Maroni, siamo forti, abbiamo militanti radicati sul territorio, tanti giovani, la Lega è pronta, il PDL darà appoggio a un governo tecnico, ha concluso. Se il PDL darà l'appoggio a un governo tecnico, si chiude una pagina, se ne apre un'altra, bianca e tutta da scrivere. Quindi insomma riconferma che la Lega non vuole appoggiare un governo tecnico. E, un'altra cosa invece che stavo vedendo, ecco, sull'Economist, l'Economist e anche il Time, sempre a proposito di stampa internazionale, Francesco, no? Anche loro dicono cose piuttosto dure. Vediamo dove le ho messe. Ecco qua, il settimanale britannico Economist che dice è inadatto fino all'ultimo Berlusconi, mentre il Time dice l'uomo dell'economia più pericolosa. Il Time proprio dice, ha dedicato la copertina all'ennesima, insomma, e dice che appunto è l'uomo che ha sprofondato il paese. Ma l'Economist è sempre quello che negli anni è stato più, diciamo, al vetriolo. Dice, ha sostenuto Berlusconi fosse inadatto a governare, ma persino noi siamo rimasti scioccati nel vedere come, mentre la crisi dell'euro si stava avvicinando all'Italia, egli abbia dedicato il suo tempo, dice l'Economist, alle feste, ai giochi politici e abbia accantonato la necessità di fare riforme. In tutto questo, Francesco, mentre ci avviamo verso la fine di questo programma, ma poi ci risentiamo sabato prossimo, vi ricordo che potete riascoltare la puntata sul sito di Radio 24, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Se va fuori Berlusconi, ma si sgretola tutto il PDL alla fine, quindi il centrodestra era vero che era retto solo da un uomo e per il resto non ha collante? Ma è molto probabile che lo sgretolamento non sia così rapido, perché comunque... Già Frattini, La Russa, Bisticcio, Brunetta e Tremonti, che dice come i polli di Renzo, diceva già Antonio Stella in questi giorni, si sbecchettano, altri che scappano, i malpancisti, Antonione che adesso fa parte del gruppo degli scontenti, definiti così, ma poi un altro gruppo parlamentare, tutti che creano gruppi, gruppuscoli, la Carlucci che scappa l'UDC, insomma è una diaspora... Sì, c'è uno sgretolamento, credo che litigassero anche quando stavano tutti insieme. È probabile. La lite in sé non significa che, però non se ne andava. Che si sono separati, eccetera. Però detto questo è evidente che lo sgretolamento del PDL ci sarà, vedremo dove porta, ci sono delle forme già definite, ci sono alcuni che vanno verso posizioni di impegno cattolico, c'è Sacconi, c'è il gruppo, c'è Lupi, che si muovono quindi verso posizioni di cattolicesimo di destra. Francesco, mancano pochissimi secondi, ma quello che ci interesserà è poi che quando ci risentiamo la prossima volta, io e te, pare che dopo ci salutiamo, insomma, molte cose saranno cambiate, forse vedremo in che direzione. Ieri era l'11/11/2011, data palindroma che si legge uguale da davanti e da dietro. Mi sa che si è spostata oggi questa data da sconvolgimento. Vedremo, caro Francesco Berlo, ti saluto e da Roberto Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.